Video game. Nuova puntata dedicata al mondo dei videogiochi, come sempre e come al solito l'inizio è dedicato invece al gioco che li vede protagonisti, che vi permette di portare a casa un buono da 300 euro. Ecco le risposte della settimana scorsa. Livello 1. È il simbolo della Pixar. La risposta era lampada. Livello 2. Il Franceschini della politica. La risposta era Dario e mettendo insieme le due parole si ottiene lampadario e notate che l'ultima sillaba della prima parola coincide con la prima sillaba della seconda. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Quello più prezioso è fatto di quel materiale. La risposta era cristallo. Complimenti a Giancarlo che si è portato a casa un buono da 300 euro. E veniamo invece al gioco di questa settimana e come sempre dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere poi il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina c'è un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Saturn. Livello 1. Dirige la scuola. Veniamo alla recensione di oggi e vi parlo di un videogioco che alla fine degli anni 90 fece davvero scalpore, non tanto per il gioco in sé, quanto per il carattere molto controverso, volgare e ironico del suo protagonista, il Duca. I'm back, baby. Duke Nukem ritorna dopo 12 anni con Duke Nukem Forever per Xbox 360 e PlayStation 3. Si tratta di uno sparatutto che ha una storia piuttosto semplice, più o meno come quella che aveva caratterizzato il primo episodio della serie, sconfiggere gli alieni. Quegli alieni bastardi la pagheranno per aver abbattuto la mia nave. Oggi il biondissimo, muscolosissimo, fighissimo e ricchissimo Duca è ritornato in un mondo che lo acclama come una vera e propria star. Casinò, fast food, statue, negozi, tutto riporta il nome del Duca e non c'è nessuno che non sappia chi sia o che non passi le giornate a parlare di lui. Ovviamente poi non c'è ragazza che non lo voglia fra le braccia. Non lo so, sembra tutto talmente pericoloso. Da qui posso vedere le navi. Chissà se sono gli stessi alieni che hai combattuto 12 anni fa. Certo che sì, sciocchina. Perché pensi che siano tornati? Perché qui c'è Duke. Sveglia. Ma se il presidente si sbaglia su di loro, tu ci proteggerai tutti, vero Duke? Di certo non hai perso il tuo tocco. Oh, Duke, fa attenzione là fuori. Ci vediamo alla festa dopo lo spettacolo, ok? Prima di andare alla festa, ecco la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. Togliendolo, va via il dolore. Ci vediamo alla festa. Torniamo a parlare di Duke Nukem Forever. Ovviamente gli alieni sono tornati e sarà vostro il compito di sconfiggerli ancora una volta. E per farlo dovrete affidarvi ai vostri muscoli e alle vostre armi, ma anche al vostro ego. E compiere infatti gesti che danno forza al vostro io farà aumentare il livello di energia a disposizione. Ehi, ciao! Mi scusi, Duke Nukem? Sì, mio figlio è un suo grande fan. Avanti, chiediglielo, Jimmy. Signor Nukem, mi firmerebbe questo? Certo, ragazzino, ma non voglio trovarlo poi su eBay. Da grande voglio essere proprio come lei. Prendi le pillole, le vitamine tutti i giorni e forse quando crescerai sarai un gran fico come me. Wow, grazie, signor Nukem. Non c'è molto altro da aggiungere perché il titolo non presenta nulla di nuovo. Armi fra le quali scegliere, livelli da superare abbassandosi o saltando, e pareti da distruggere, alieni da abbattere. Ci si aspettava molto da questo titolo perché i fan dell'ironia di Duke Nukem sono ancora molti. E peccato però che siano passati 20 anni dal titolo originale e pare che quello di oggi sia rimasto a 20 anni fa. Che ne dici del gioco, Duke? Ti è piaciuto? Dopo 12 fottuti anni vorrei anche vedere. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco. Il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. E ricordate che chi invierà la risposta corretta via mail per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Saturn. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. In Italia fu il primo. E adesso la classifica. Al quinto posto, gli sport divertenti dell'idraulico Mario, solo per Nintendo Wii, Mario Sport Mix. Quarto e secondo posto, ancora governati dai Pokémon, nella versione White e Black, solo per Nintendo DS. Terzo posto, per la Balance Board con Wii Fit Plus. Nuova entrata al primo posto, il seguito dello sparatutto in prima persona che ha catturato il fan della PlayStation 3, Infamous 2. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Game over.